esperta. Non è a cotia tembe sommo e io canga summa, io canga summa, io canga summa, che volo. Voy a contar el baby nace en nadie. No, no, no, no, no, no, no, mami. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Arikanga vangoo.